La prima prova israeliana trova la quarta dose non abbastanza efficace contro l'Omicron. L'esperto del Sheba Medical Center afferma che questa dose aumenta i livelli di anticorpi Covid, ma ci sono ancora molte infezioni tra coloro che lo hanno ricevuto. Quasi un mese dopo che il Sheba Medical Center ha lanciato uno studio del punto di riferimento per testare l'efficacia della quarta dose anti-Covid, l'ospedale ha detto lunedì che questo quarto booster era solo parzialmente efficace nella protezione contro la variante. Il vaccino, che è stato molto efficace contro i ceppi precedenti, è meno efficace contro il ceppo di Omicron, ha detto il professor Yiri Regev-Yohi, uno dei ricercatori principali dell'esperimento. Vediamo l'aumento degli anticorpi dopo la terza dose, ha detto il professor. Tuttavia, vediamo molte infette da Omicron che hanno ricevuto la quarta dose. Un po' meno che nel gruppo di controllo, ma ancora sono tanti. In sostanza, il vaccino è eccellente contro le varianti Alfa e Delta, ma per Omicron non è abbastanza buono, ha detto il professor. E ha aggiunto che è ancora probabilmente una buona idea dare la quarta dose solo a quelli a rischio più elevato. L'ospedale non ha rilasciato dati più specifici, però il professore ha detto che i risultati della ricerca sono solo preliminari, ma hanno indicato che stava fornendo le informazioni iniziali poiché c'era un alto interesse pubblico in materia. Ore dopo aver rilasciato i risultati, il Sheba Medical Center ha pubblicato una dichiarazione che chiedeva di continuare l'unità di vaccinazione per i gruppi di rischio in questo momento, anche se il vaccino non fornisce una protezione ottimale contro l'infezione della variante. I media ebraici hanno riferito che l'ospedale è stato rimproverato per emettere tale affermazione dopo che il Ministero della Salute non piaceva la pubblicazione dei risultati iniziali dello studio. Il primo ministro Naftali Bennett ha spinto in anticipo con l'espansione del quarto programma di dose di Israele nonostante la mancanza di dati. A partire da domenica sera, oltre 500.000 israeliani sono stati inoculati con una quarta dose. Il Ministero della Salute ha iniziato a offrire la quarta dose del vaccino agli israeliani sessantenni e più anziani, l'immunocompromessi ai lavoratori medici il mese scorso. Il programma di prova di Sheba, iniziato a dicembre con 150 membri del personale medico che hanno dato il vaccino, è molto più ristretto che le normali prove del farmaco che di solito comportano migliaia di volontari dove i risultati sono tracciati per mesi. Ma è anche l'unico studio noto degli effetti di una quarta dose. Israele sta bloccando la speranza che il booster extra può aiutare a mantenere la variante Omicron da ospedali travolgenti e chiudendo la vita normale. Lo studio, il primo del suo genere al mondo, viene effettuato in collaborazione con il Ministero della Salute ed è stato approvato dal panel senior del governo sugli studi medici umani. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha esortato i paesi a ritardare i programmi di booster fino a quando il mondo intero ha accesso alle dosi iniziali del vaccino. Circa 2/3 della popolazione di Israele di quasi 9 milioni e mezzo hanno ricevuto almeno una dose del vaccino e quasi 4 milioni e mezzo hanno ricevuto 3 dosi, secondo i dati del Ministero della Salute. Questa informazione è tratta dal sito The Times of Israel.